Dialog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Io sono stato per 25 anni in mezzo ai coquers. Questa gente era gente che mi dava biglietto di prima classe, $10,000 così come fossero un souvenir. E per fare cosa? Per fare quello che si chiamavano i pizzini. Lato oscuro della mia vita, che mi ha dato un guadagno immenso, mi ha fatto conoscere gente incredibile, da Andreotti a quelli che gli scemi che oggi coltivano la politica. È stata una richiesta da parte del pubblico che esaudisco questa mattina. Sono settimane che io nelle mie transumanze domenicali in treno incontro un signore dall'accento genovese, ma non potrei giurare dove sia nato, dove viva, cosa abbia fatto nella vita. So solo che è una vita molto avventurosa, o almeno la racconta come tale. È stato ovunque, in qualunque paese del mondo, per tanti anni. Ha fatto il soldato, il pilota d'aereo di linea, il trafficante, il marinaio, ha nuotato, ha attraversato foreste, ha avuto donne bellissime, ha conosciuto qualunque tipo di etnia umana, e con qualunque tipo di etnia umana ha avuto traffici, commerci, interessi, ha trafficato da scheletri umani dall'India per gli istituti d'anatomia fino alle coccinelle per fare l'Aperol, passando attraverso le categorie merceologiche più strampalate. Beh, tutti abbiamo un amico avventuroso. Qual è stato il mio fine settimana? Ma sono stato venerdì, sabato e domenica davanti a un computer. Che ti fatto voi di avventuroso? Sarete andati nella seconda casa, fare un weekend, fuori con la famiglia, una passeggiatina. Al massimo qualcuno avrà fatto una cenetta e sarà portato qualcuno a letto. Ecco, questa è l'avventura media dell'essere umano medio. Poi esiste l'amico avventuroso, quello che ci fa crepare d'invidia e ci racconta mondi che mai non lambiremo, nemmeno con la più spietata delle nostre fantasie. 800 24 00 24. Noi vi raccontiamo il nostro amico avventuroso, voi raccontate i vostri, se li avete. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Melog. Cronache meridiane. E così un giorno me ne uscì da casa, me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo che batteva bandiera liberiana. Che cosa trasportasse quel cargo non l'ho mai capito. In quei 2 anni ho fatto di tutto. Sono drogato, sono stato con le donne, con gli uomini. Come con gli uomini? Tutto. La gente che ho visto morire. A profusione proprio. Mi ricordo che per le strade di Bombay si contavano più morti che vivi. Tornato in Italia volevo riprendere gli studi, ma ormai era troppo tardi. E fu allora che dissi, Manuel, fatti da solo. E così andai a Parigi a fare il cameriere. Lì chi ti incontro? Una donna bella, ricca, importante. Solo che lei aveva il vizio di bere. Lei e quell'altro amico suo lì. Quello Richard Burton che mi è sempre stato qua. Richard Burton? Richard Burton. Faceva una gara a chi beveva di più. Poi una sera Burton mi vomita sulla moquette del salotto e quella fu la goccia che fece. Questo naturalmente è Manuel Fantoni, è il frutto della fantasia di Borotalco, il pallonaro che raccontava Verdone, vita avventurosissima in realtà, poi lo viene a prendere la polizia, lo porta via, un piccolo sola di paese. Ma noi abbiamo ben altra cosa. Sono settimane che ricevo telefonate da parte di chi mi ascolta la domenica, spero che in qualche maniera coincida con chi mi ascolta anche durante la settimana, che mi chiede lumi, delucidazioni, informazioni sulla persona che incontro in treno da qualche settimana a questa parte. Nella trasmissione domenicale Il treno va. Confesso, io non so nemmeno il suo nome, ma nemmeno mi interessa saperlo. So che è una persona che amabilmente, ogni volta che l'incontro in treno, mi racconta la sua vita. È una vita che io non avrò mai, nemmeno potessi vivere altre 100 vite. Non farò mai più in tempo ad avere una vita del genere. E lui non so come è riuscito a averla. Ma ancora di più è riuscito a raccontarla, perché avere una vita avventurosa e poi non avere gli strumenti per raccontarla è praticamente non aver vissuto. Avere una vita avventurosa e lasciare tracce nella memoria degli altri la propria vita avventurosa dà un senso all'averlo vissuto. Io questa mattina l'ho farò parlare per le persone che mi ascoltano in diretta per la prima volta fuori dallo spazio del treno in cui ormai era abituale che io lo incontrassi, perché voglio dare soddisfazione alle persone che mi hanno chiamato e voglio capire se esiste nell'esperienza di chi mi ascolta una frequentazione assimilabile a quella del nostro amico. Avete a voi l'amico avventuroso, quello che vi racconta delle storie bellissime, mirabolanti, che dunque va, fa degli incontri stupendi, fantastici, o che ha visitato tutti i paesi del mondo, ha rischiato tante volte la vita, ha avuto contatti con le più sublimi frange della società, come con le più abiette, con le più inique. Se ce l'avete, mettetelo sul piatto, io mi giocherò il mio asso, che sono sicuro che vincerà tutti voi. Io mi sono comprato 46 macchine tra Porsche, Ferrari e tutto il resto. Pensi che io ho vissuto l'epoca del dollaro a 2200 lire. Io ho comprato 6 appartamenti a mia madre e a mia nonna. I soldi mi entravano dal... Non sapevo nemmeno più cosa faceva, capito? Ma era un'attività ai limiti, diciamo, ai limiti della legalità, o sbaglio? No, io certe cose non 800 24 0024, come potrei io girare il mondo se mi viene l'allergia da acaro soltanto per stare in uno studio radiofonico? C'è un po' di polvere, un po' di pestaticcio di piedi, un po' di colleghi che entrano e escono. Come potrei io lambire i luoghi esotici e pericolosi, attraversati da zanzare grandi come aeroplani, con serpenti velenosi, con indigeni che magari tagliano le teste. Amico, buongiorno. Buongiorno, dottore. Facciamo che io comunque voglio non sapere il suo nome. Non l'ho mai saputo? Mi fa piacere, incuriosito. Io mi chiamo Marco Augusto Maria. Ah, adesso l'ha detto. Marco Augusto Maria. Bene, lo so adesso per la prima volta. Mi dà atto che non l'ho mai chiesto io. Gliel'ho detto, sono alto 1,90 m, pesavo 100 kg, adesso ne peso 86 dopo un infartino che mi sono salvato. Ma l'infartino per cosa se l'è preso? Visto che lei ha toccato... Penso che scioccato dalla vita che ho fatto, quando ho cominciato a fare la vita regolare, per me tra virgolette regolare, no, ho passato un brutto periodo che bevevo troppo smodatamente, proprio quello mi ha causato, come adesso ho completamente smesso. Ma lei vive la nostalgia di quell'altra vita, quella che ci racconta tutte le settimane? No, non, nostalgia no, cioè sono dei bei ricordi che mi porto dentro e lei mi ha dato l'occasione di parlarne e le parlo volentieri, ma se rimangono tali non è che farei pazzie per ritornare a fare, diciamo, come dire, fancy. Facciamo un racconto per le persone che in questo momento l'ascoltano e probabilmente molti non l'hanno sentita in treno, la cosa che, per cui ci siamo conosciuti. Il paese più esotico che l'hai visitato per un periodo abbastanza consistente della sua vita. Ma vede, io sono stato anche in posti, sono stato nel Suriname, nel Belize, sono stato in Mauritania. E sono paesi che non ne parla mai nessuno. Il Belize ad ogni modo è un paradiso terrestre e fiscale, dove c'è più svizzeri e banche che popolazione. E lei cosa faceva in Belize? Assolutamente, ero andato a trovare un mio amico che si era messo in testa, uno dei primi che è già morto, si chiamava Plebani, e faceva gli scooter d'acqua. Un italiano che faceva scooter d'acqua era andato lì, perché era un paradiso fiscale, diciamo, conveniva. Sì, soprattutto poi li affittava, perché lui aveva fatto una piccola società tra Monte Carlo, Nizza e Sanremo, ma era più quelli che le fregavano che il guadagno che aveva. Se l'era progettato lui, l'idrojet si chiamava l'azienda. E lei lì è andato per questo amico. La sua vita com'era lì, a parte, diciamo, l'aspetto professionale? Ma lì è abbastanza, sai, i tropici sono noiosi, poi dopo un po' se si tropicalizza e diventa rincoglionito. Ma perché? Ma perché noioso? Perché c'è la monotonia, non so, come in Indonesia non vanno nemmeno a pescare, aspettano la bassa marea, fa dei fossi, c'è i pesci dentro, le banane ce l'hanno. Lei è stato anche in Indonesia? 8 anni sono stato. E cosa faceva in Indonesia? Indonesia, ve l'ho detto, l'unica attività che adesso ho tenuto, oltre a cose, è l'importo a Nizza, a Parigi, a Lione, le coscette di rana surgelate. E come accadeva? Lei faceva raccogliere cosce di rana, poi le surgelava e le mandava? In Indonesia la rana è quasi, nell'induismo soprattutto, è venerata, perché se c'è un terremoto, un maremoto, qualunque cosa, non gracidano più. E se no fanno un casino terribile, in ogni posto c'è il loro laghetto, tutte cose, solo che adesso, cioè, gli ho detto, nella bassa Padania, se lei va su dove c'è la Bonarda, lungo il Po c'è il risotto con le coscette di rana. Ma quelle indonesiane che ha importato lei o quelle locali loro? Questo non glielo so dire. Ma erano, diciamo, di qualità migliore, naturalmente, le rane indonesiane. Sono più grosse. E anche le coccinelle ha importato lei? Coccinelle però fanno il Campari e non il... E da dove vengono le coccinelle? Le coccinelle le raccolgono anche giù a Terni, Macerata, quei posti lì. E con tante coccinelle si fa il colorante per fare i liquori? Non so se è solo colorante o c'è dell'additivo naturale. Insomma, è un segreto come la Coca-Cola, diciamo. Campari non sono riusciti a imitarlo nessuno o a copiarlo. Qual è il traffico più singolare che ha visto fare? Una volta mi ha parlato di specializzati nella scarnificazione dei cadaveri per vendere gli scheletri agli istituti. Sì, ma quello lì per pagare il funerale, gli induisti vendono il morto. Ma dove questo esattamente? Dove l'ha visto lei? Ma quello a Calcutta, al New Delhi, Benares, Bombay, tutta l'India. E come funziona questo commercio? Vendono il morto? Vendono il morto e lo buttano nella calce, che cosa? Tirano fuori le ossa, poi l'assemblano e secondo le richieste lo spediscono in istituti, ospedali, università. Per fare gli scheletri, diciamo, per studiare l'anatomia? Sì, adesso li fanno ormai di plastica, dottore, però resiste sempre, ecco. Diciamo, qual è il paese invece in cui ha vissuto l'avventura più intensa da un punto di vista dei rapporti, dell'amore, della passione? La cosa più brutta che ho visto è quella lì, la commercializzazione degli organi, soprattutto bambini che spariscono, si rivendono. Quindi è vero, non è una leggenda metropolitana? No, quella lì c'è una tristezza dietro, è proprio... non lo so, viene la pelle d'oca a pensarci. Allora, un attimo solo, io volevo dire ai nostri ascoltatori di poter chiamare all'800240024, perché io molte delle mie curiosità con il signore che ci sta parlando me sono tolte, perché ci parlo da qualche settimana. Se avete voi delle particolari curiosità, ma sull'universo mondo, i paesi che abbiamo già lambito in questo racconto, ma anche andando avanti, ce ne sono altri, perché lui è stato veramente in quasi tutte le parti del mondo, è qui per rispondere. Magari avete delle possibilità di confrontare delle vostre esperienze e dei vostri ricordi anche con lui. Ci sentiamo tra un istante. 800240024. Melog, Cronache Meridiane. E Madre Teresa cosa le ha detto quando ci ha parlato? Mi ha scritto: la vita è un'opportunità, traenene profitto. La vita è bellezza, ammirala. La vita è un sogno, realizzalo. La vita è una sfida, accettala. La vita è un gioco, giocatela. La vita è dolore, superalo. La vita è un'avventura, osala. La vita è un canto, cantatela. La vita è un mistero, scoprilo. La vita è la vita, amala e preservala. Poi per lei l'ha scritto, poi per lei personalmente? No, ma mi ha dato sto cuore dritto perché... Questo è il nostro amico Marco Augusto Maria, il viaggiatore, che io ho frequentato per qualche settimana lungo le tratte delle ferrovie italiane, e oggi propongo ai nostri ascoltatori della quotidiana, perché così mi è stato chiesto. Tutti hanno un amico viaggiatore, un amico ci racconta le sue storie, che ci fa rimpiangere probabilmente quella che è stata la monotonia della nostra vita, e con un po' di invidia, a volte anche con un po' di credulità, lo confesso, lo ascoltiamo. Marco Augusto Maria ha conosciuto Madre Teresa di Calcutta, quindi ha conosciuto santi, ma ha conosciuto soltanto sante lei nella sua vita avventurosa? No. Ci parli sia della santa, di quelle un po' meno sante. Ma io sono abitato un periodo a Porto Recanati, dalle Marche, mi interessavo, insomma, del Pellame per Diego della Valle, via Casette Dette, e andavo a vedere che le Marche è un patrimonio di chiese, di cultura, bellissimo. e girando sono finito in un convento di clausura che ci sono le suore loretane. Come ha fatto a finire un uomo dentro un convento di clausura di suore? Per una banalità, avevo un vestito che mi piaceva, l'avevo strappato e mi hanno detto che come ricavano le suore di clausura. Questo è vero, giravoce infatti, che il ricamo della suora è inimitabile. Sono andato, le dico che quando me l'hanno consegnato non sapevo, cercavo la... Un rammendo perfetto. Ma una cosa da capogiro, da proprio da mani di divinità. E di niente. E lì c'era così, anche la santa. Ma siccome io ho sempre fatto, visto sta suora piccolina, magra, mingherlina, dimessa, camminava, deambulava male, mezza gobba, e l'ho riconosciuta, l'ho voluta conoscere, l'ho salutata. E da quel giorno lì le ho sempre, fino alla sua morte, regalato una cifra che potevo permettermi per curare la gente che lei designava. Visto che avevo letto anche una sua biografia, che il premio Nobel in denaro l'ha rivolto ai lebbrosi, ho detto, mi porterà del bene anche questo. Sono genovese, c'è tante barzellette sui genovesi, la sa una delle più belle. Sono due che entrano in un bar e all'amico uno le dice in genovese: che cosa ti pigi, cioè cosa prendi, intende da bere? E quello si guarda in giro e dice: a chi? Ah, nel senso è chiaro. Sì, ma lei da genovese comunque non mi pare che abbia mai avuto il braccino corto. Soldi ne ha maneggiati tanti di soldi nella vita. Ma perché a Genova non sono spiloci, sono parsimoniosi, sì. È un'altra cosa. Ma lei era parsimonioso quando stava in giro per il mondo? No, francamente no. Si ricorda quanti soldi ha maneggiato nella vita? Tanti. Li ho maneggiati tanti, ma... E anche ben spesi. L'ho spesi bene, poi ero contento. Mia nonna voleva il potager perché parlava un po' un patois francese, argentino. Sarebbe stata la stufa, e allora le compravo la stufa. Le piaceva andare nei ristoranti, la portavo a Rododendro e mi mettevo d'accordo col proprietario perché la nonna 50.000 lire era già... Se adesso vuol farmi credere però che i soldi l'ha spesi, le uniche donne con cui ha speso soldi è una santa e una nonna. Ah, la nonna per me, quando è morta lei, era andato via un pezzo della mia vita. Era una persona eccezionale. Ho due ascoltatori, voglio farle delle domande. Massimo, buongiorno. Sì, buongiorno. Cosa deve domandare al nostro avventuroso ospite? Volevo domandare al vostro ospite come si comincia una vita del genere? C'è un'iniziazione? Ci sono degli ambienti particolari da frequentare? La Spectre, immagino, non lo so. Sì, poi? E se poi è possibile uscirne, diciamo, facilmente, senza avere contraccolpi o... Allora, Marco Augusto, strasci. Prima domanda, come si entra in una vita avventurosa e come si fa a uscirne? È possibile? Ma non si entra e non si esce, sono occasioni che possono capitare nella vita, come un grande amore, come un salvarsi da un incidente. E uscirne sta la ragione propria di usare il proprio cervello, sapere che abbiamo dei limiti e che non bisogna tirare la corda, che c'è sempre qualcuno più furbo, più potente, più scaltro di noi, e rispettare l'ambiente, che ogni ambiente ha le sue regole. Chi è la persona più potente che ha conosciuto? Lei? Più potente in assoluto, al di là dei limiti umani o delle investiture ufficiali? E credo che sia un personaggio che lavorava sugli aerei, che faceva il meccanico di bordo. E perché era potente? Era potente perché era talmente furbo e scaltro che lui faceva le riparazioni a termine, cioè fra 2 mesi si guasta, sapeva già il pezzo, lo mandavano a chiamare, era specializzato nei radar e i suoi radar non duravano più del periodo che lui dava la garanzia. Lei ha fatto anche il pilota d'aereo di linea? Sì. Per quanti anni? 7 anni esattamente, perché in Indonesia ad esempio ci vuole un brevetto speciale, su Hong Kong ci vuole un brevetto speciale, ci sono aeroporti a alto rischio o come quello di Genova, di Lampedusa o di altre nazioni. Perché io ci ho dato indietro il brevetto, sono stato costretto, ma io se voglio un Cessna, un aereo di piccola da 9 posti un executive io lo posso portare, però non posso più portare né passeggeri né merci e non posso più avere responsabilità verso terzi, non mi assicura più la IATA. Beh, dopo questa vita ci credo, uno... so, però capisce. Lei ha appena detto che ha avuto un infarto. Senta, lei ha fatto, molti vogliono sapere se lei ha anche combattuto, fatto il soldato, il militare, qualcuno dice ha ucciso qualcuno, ma saranno fatti suoi, se l'ha fatto e non ne paga conto. Quando si va, ad esempio, io l'ultima guerra che ho fatto era a Timor in Indonesia, dove c'era portoghesi, olandesi che non volevano mollare le chiatte petrolifere sul Mar della Sonda. Che anno era più o meno? Che anno era? Parliamo di 11 anni fa. Beh, lì ha combattuto pure lei, cioè si è difeso. E lì noi eravamo un reparto di coperture, siccome io ho fatto il Lagunare San Marco, ho giocato tanti anni a pallanuoto, appena mi hanno visto mi hanno schiaffato nei Lagunari San Marco. E lì io poi mi hanno mandato a fare diverse specializzazioni, ad esempio io sono orgoglioso, parlo un sacco di dialetti africani, cose, cioè li capisco. E poi sogno io una lingua quando lo imparo, o se non mi metto a telefonare perché al telefono. Quante lingue parla più o meno lei? Quante lingue parla? Francese, inglese, e dialetti spagnolo, portoghese, indonesiano. Ma perché io ho un metodo, prendo un posacenere, posacenere italiano, estrescio in inglese, sandrie in francese, seneriare in spagnolo e vado avanti, poi i verbi, aggettivi e... Vengono da soli quelli? Li stropio ma mi faccio capire. Vabbè, c'è una lingua... Oreste, buongiorno, sentiamo Oreste. Oreste. Buongiorno. Sua domanda? La mia domanda è semplicissima. Mi sembra di sentire un libro di Salgari in chiave moderna, ma vorrei conoscere, oltre a tutte queste avventure avventurose all'impossibile, ai suoi discendenti cosa crede di aver lasciato questo uomo? Beh, perché lo dice con questo tono inquisitorio? Perché, scusi? È inquisitorio perché non ho sentito niente di positivo. Come positivo? Ha fatto una vita fantastica, meravigliosa. Sì, ha fatto la sua vita, ma ha fatto il postino della mafia, dei spacciatori di droga. Ah, perché lei ha ascoltato tutte le puntate? No, sì. Io l'ascolto sempre. Ah, beh, lei sa, è bene che fa il moralizzatore, è un prete, lei è un poliziotto. No, sono fatti suoi. Moralizzatore. Vede, io ho 5 nipoti a cui dedico il maggior tempo possibile. E lei ha investito in rapporti coniugali, lui ha investito in piacere della vita. Sentiamolo comunque. Marco Augusto, Augusto Maria, il signore dice non hai fatto i nipoti, non hai investito una famiglia. Beh, c'è anche l'Umarel che rivendica la sua esistenza. Vabbè, ma c'ha un po' di cocina e di cadenza da prelato, a mio giudizio. Sì, in panca me, sacrestano probabilmente. C'ha un po' di incenso. Niente, lascio anche per mi scusi con quello che sta uscendo in questi giorni sulla vita dei prelati, non hanno nulla da invidiare secondo me, sia in avventure che in maneggio. Se sono stato dentro, conoscevo molto bene un signore che si chiamava Marcinkus, che l'ho sempre visto vestito all'Armani con i calzini bordeaux, molto brillante, colto. Come mai lo conosceva lei Marcinkus, però, che era americano? Perché quando dovevo mandare dei soldi all'estero mi sono sempre servito della banca del Vaticano e dell'ILOR. Entravo come può entrare lei qualunque cittadino, col permesso, andavo in questa banca sacrestia. Chi rispondeva? Chi c'era lì? Un prete anche dietro il banco? C'era di tutto, monsignori, gente coltissima, suore dal Bangladesh, dalla Cina. Ma facevano domande oppure andava lì uno col sacco di... Che volevano il 6% sul capitale, volevano un passaporto e la destinazione della banca o di un consolato, poteva prendere qualunque valuta da qualunque parte del mondo. Uno poteva andare con un sacco di dobloni d'oro se li prendevano. Ma no, lì tutto telematico era già. Soldi li dava materialmente a un monsignore che la prendeva a braccetto, l'accompagnava, ste suore un silenzio pazzesco, le davano il rosolio, il cassis, la bottiglia di champagne, quello che voleva, le mandorle fatte da loro, i dolcetti, e poi mentre l'accompagnava alla porta le diceva se faceva un'opera buona all'Opus Dei, visto il servizio efficiente che avevano loro. Ma questo dove è successo a Roma, in Vaticano, accadeva? Sì, succede succede ancora. E Marcinkus, che... allora rifletta un attimo, adesso dare la linea all'interruzione. Vorrei sapere di più su Marcinkus, che è un grande personaggio. Se lei l'ha conosciuto, a parte i calzini e i vestiti di Armani, saprà dirmi qualcos'altro. Fra un istante, vediamo che entriamo veramente nella vera parte pulsante della vita di quest'uomo. A tra poco. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Che sarà mai? Fuori onda che sarà mai? Cioè Buttafuoco qui, posso parlare con lui la mattina? Si scandalizzano per i fuori onda. Perché? E che ne so, c'hanno questa sorta di rigore, pretesco. Quando ti danno il via devi parlare, parlo quando vuoi. 800240024, siamo qui con il nostro amico viaggiatore, Marco Augusto Maria. Ci sono degli ascoltatori che sono molto maliziosi. Uno mi dice, ma quanto è pagato questo per raccontare ste stronzate? No, non è pagato niente, lo fa per suo piacere e per nostro piacere. Qua non c'è traffico di soldi. Poi, questo personaggio, la credibilità delle scie chimiche. Vabbè, io lo sto a ascoltare, mi piace ascoltarlo, ci sono delle persone affascinate. Altri mi dicono, ma cos'è, uno scherzo questa trasmissione? No, non è uno scherzo. La persona che racconta la sua vita. Nel racconto della vita di ognuno, nessuno mai potrà mettere la mano, come mise San Tommaso nella piaga purulenta, per vedere se è vero. La racconto, è un suono che mi fa piacere alle orecchie. Melita, buongiorno. Allora, pronto? Senta, sì. Io sto ascoltando sempre con enorme piacere il suo programma. Di dove è lei? Di dove è lei, Melita? Di origine austro-ungarica. Austro-ungarico, benissimo. Sì. Non ha proprio l'accento del Kaiser, comunque. No, non ce l'ho, è vero. Senta, io volevo dire... Perché parla così, questa invece, con quest'altro accento? Non lo so. Ha viaggiato molto anche lei? Sì, un po'. Fino a 30 anni fa, quando è nata, 32 anni fa, è nata mia figlia e da allora ho smesso un po' di viaggiare. Bene. Però quello che volevo dire è che il signore, il cosiddetto viaggiatore, e volevo chiedere, non è che può scrivere il libro un libro sulla sua vita, sulla sua storia, perché è affascinante? Ecco, a lei piace, sono contento. Vai. Moltissimo. E poi voglio dire che ho avuto, diciamo, incontri con personaggi particolari, però mai, non ho mai avuto la fortuna di incontrare uno particolare come questo signore. Lo so, beh, per questo facciamo ascoltare, siccome è un'esperienza secondo me interessante. Guarda che anche Ulisse, quando tornava dai suoi viaggi, ha raccontato tante cose: sirene, ciclopi, sì, maghi. Nessuno ci credeva, però ancora stiamo a pensare a Ulisse e pensiamo alla sua storia. Esatto. Le storie hanno un valore simbolico, a dire il valore reale e concreto. Claudio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e anche sì. L'ospite. Niente, io penso di conoscere questo signore, però volevo una controprova perché ho sentito che ha detto che ha lavorato a casette vette con i pellami. Sì, può essere, tanta gente. Così ho sentito. Sì, ma non è un delitto aver lavorato con i pellami. No, era per vedere se... Vuol fare una domanda trappola per capire se ci ha lavorato veramente? È la faccia, esatto. È la faccia, Claudio. Che dunque... se io a questo signore gli dico Sacomar, che cosa mi dice esattamente, dato che lavoravo in quella zona? Marco Augusto Maria, se dice Sacomar, cosa dice lei? Sacomar era una delle tante società del fratello di Diego Della Valle. Ecco, beccata. Claudio, ecco, soddisfatto? Non è di Diego Della Valle, comunque. Del fratello, ha detto del fratello, guarda, ha detto una tante... del società. No, del... No, era una conceria. Comunque, in che anni lavorava in quella zona? Pronto? Sì, no, sta facendo domande a trabocchetto. Ma mi va bene la voce del signore. Sì, dicevo, vuol sapere in che anni lavorava in quella zona. Non so perché, lei ha raccontato l'universo mondo, ha conosciuto questo mondo, gli interessa sono cosa così triste. Sono stato nell'82, dall'82, ma sono stato più di 10 anni lì. Addirittura dico al signore che aveva una casa in affitto a Montelupone. Soddisfatto, Claudio? Non lo so. Non è proprio così come... è stato in Indonesia, ha girato il mondo, sporco da di Montelupone. Cioè... Ho capito, però da piccole cose si capisce se... Ah, lei vuole, dice sì, lo stano su Montelupone e poi lo stano anche su Madre Teresa e Marcinkus. Però parlate fra di voi, poi magari mi dà qualche informazione, sennò do tutta la trasmissione sulle Marche, io voglio sapere le cose esotiche. Grazie comunque. Renato. Ciao Nicoletti, buongiorno. Sì. Volevo fare i complimenti al signore perché soprattutto intanto espone la verità su quello che è la sua vita, il che non è facile, perché giustamente uno che ha vissuto tutta questa vita un po' travagliata, ma anche splendida da un certo punto di vista, perché conoscendo tanti personaggi, tante persone. Io siccome però non ho girato come lui, però ho girato l'Italia, ho conosciuto un po' tanti personaggi di cui l'Italia è un po' lo specchio di quello che uno riesce a volte nascondere certe situazioni e certe cose. Comunque gli volevo fare i complimenti perché uno che dice la verità ed espone in questo modo, dando diciamo atto a, a quello che è la sua vita, secondo me è un uomo coraggioso. Sì, anche perché uno si espone, chiaramente uno si espone anche alla gente, dice ma dai non dire cazzate, chiaro, uno dice conosce personaggi importantissimi. Poi andiamo avanti, guardi, ho ancora 3 minuti e li dedico tutti al suo racconto. Bypassiamo Marcinkus che ci ha detto tanto. Giorgio, scusi un attimo, Giorgio, buongiorno. Velocissimo, io volevo chiedere al suo ospite. Io sono ex ufficiale medico della Marina Militare. Sì. Lui ha detto che fa servizio militare nei lagunari San Marco. Allora, i lagunari sono una specialità dell'esercito. L'allora battaglione San Marco di sede a Brindisi era Marina Militare. Del 2 o Marina Militare o esercito. Va bene, facciamo rispondere subito a Marco Augusto, risponda a questo. Io ero a Ronco dei Legionari. Le va bene, Giorgio, come risposta? Dove era? Ronchi dei Legionari. Ronchi Legionari? Sì. Sì, ma non mi ricordo. Ah, vuol sapere? I Lagunari sono una cosa e San Marco è un'altra. Era San Marco Lagunari, Marco Augusto. Ci sono diversi corpi a Taranto, a Brindisi, ci sono gli assaltatori, ad esempio noi ci prendevamo in giro, ci chiamavamo i bersaglieri, i subacquei, i ciclisti. E c'è un sacco di specializzazioni, non, è un po' vago. Vabbè, risponde, poi si parlerà anche... Modo c'è, io guardi, basta che chieda al signor Ridolfo, che è il tenente colonnello che c'è ancora adesso nei Lagunari San Marco, per l'addestramento dei reparti all'estero, perché i Lagunari poi sono all'estero con la legione straniera, con i caschi blu. Diciamo, Giorgio ha lavorato, ha prestato la sopra in dei corpi, non sono proprio quelli che vediamo sfilare il 2 giugno, mi sembra aver capito, esatto. Nei fori imperiali. Tutto avevo la possibilità di fare il mio sport e di studiare dove un corpo che è ad altissima specializzazione, lì discorsi non ce ne sono, ci sono mezze attrezzature, una disciplina incredibile. La formazione, pensi che noi facevamo i sondaggi. Fermo un attimo, Alberto, c'è un 30 secondi, dica la sua parola, pertanto lo riprenderemo questa missione. Cosa vuol fare lei? È un genio, lo voglio lavorare con me. Cosa devo fare? Ma che lavoro fa lei? E che mi dica che lavoro fa lei? Io mi occupo di una formazione particolare, di cambiamento strategico. Quell'uomo, la prego, mi faccia fare un contratto con quel signore. Questo non è mai successo che offrisse lavoro così, d'amblè, a una persona che penso abbia più di 60 anni. Comunque, riprenderemo il filo di questo ragionamento, visto che Marco Augusto Maria interessa molto. Intanto abbiamo trovato un lavoro, non credo che abbia bisogno. Penso che abbia più soldi lui di quanti noi nella nostra vita immagineremo di averne mai avuti. Comunque, lanciamo la notizia. Ci risentiremo con lui a questi microfoni molto presto.